ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Quando fa l'elenco dei mafiosi che in qualche modo ha conosciuto, Francesco Viviano cita il Gotha di Cosa Nostra, della Cosa Nostra capace di trasformare Palermo in Beirut e di attentare al cuore dello Stato. E quando snocciola i nomi dei Madonia, dei Mutolo o dei Gambino, lo fa non solo perché poi li avrebbe incrociati nell'aula bunker di Palermo, dove lui era inviato e loro detenuti dentro le gabbie. Lo fa anche perché con i picciotti di queste famiglie lui per un po' ha vissuto fianco a fianco negli stessi bassifondi, dove può bastare una giornata a farti diventare killer, ma serve un lungo cammino per liberarti dall'odore della povertà, dai codici di vendetta e dalla tentazione di farti giustizia da te. Così Francesco Viviano, prima di inforcare la penna con cui avrebbe raccontato, prima per l'Ansa, poi per Repubblica, le principali vicende di cronaca, ha imbracciato una pistola anni fa ed è arrivato a puntarla alla testa dell'uomo che l'aveva privato di un padre e condannato al libretto di povertà. Invece è stato solo un killer mancato, titolo ora della sua autobiografia per chiare lettere, ma poi è diventato un giornalista, capace come pochi altri di raccontare le trame della mafia, perché, come forse nessun altro, è un giornalista cresciuto con i mafiosi, capace di parlare la loro stessa lingua, ma la sua storia è emblematica anche della possibilità di riscatto dai quartieri più difficili e più compromessi ed è per questo che in A Ciascuno il Suo questa settimana vi raccontiamo di un killer mancato. Io sono rimasto orfano a 13 mesi perché mio padre nel 1950, il 26 marzo del 1950, fu ammazzato perché era un ladro. Stava rubando in una conceria di pelli di Palermo e a 22 anni fu trucidato. E quindi io rimasi orfano a 13 mesi, mia madre vedova a 19 anni. Mia madre, che non sapeva né leggere né scrivere, era analfabeta, per tentare di sopravvivere. E quindi ha fatto la cameriera tutta la vita. Io ero cresciuto nel quartiere Ballarò, il cuore di Palermo, il vecchio centro storico di Palermo, dove quasi tutti, comunque la maggioranza, era povera gente. Molta di questa povera gente facevano gli scippatori, i rapinatori, i ladri. Il codice anche di quel vicolo arena dove sei nato voleva che appunto il sangue si vendica con altro sangue, quindi la morte di tuo padre andava vendicata, andava riscattata. Questo sì, non ho mai saputo nulla di mio padre, io non l'ho conosciuto e neanche sapevo la storia di mio padre quando poi sono diventato grandicello. L'ho appresa per caso frequentando le taverne, le bettole, perché ci fu un tentativo di vendetta da parte di mio nonno, però mio nonno fu costretto a non reagire perché la mafia, alcuni mafiosi, gli dissero che lui non poteva vendicarsi perché mio padre aveva sbagliato, perché mio padre era andato a rubare a casa in una conceria di pelli di una persona che non doveva andare. Una persona che non doveva toccare, quindi questo... Non doveva toccare. Tuo nonno non doveva a quel punto vendicarlo perché c'era stato uno sgarro. Esattamente, però mio nonno fu costretto a non vendicarsi anche da un'altra minaccia, che era quella che avrebbero ucciso anche i complici di mio padre, che erano quella sera erano andati a rubare in quella conceria. Però propose a tua mamma di farlo. Perché, come dire, mia madre era una donna povera e pazza. Quindi se l'avesse fatto lei, suggerì mio nonno, nessuno avrebbe avuto niente da recriminare, perché sarebbe stato il gesto di una donna, appunto, impazzita, disperata. Questo non avrebbe portato altro sangue dopo? Probabilmente sì, questo non lo so. Ma sicuramente il gesto di una donna era diverso da quello che avrebbe voluto compiere mio nonno. Tua mamma però a un certo punto ebbe un'offerta anche e lei, oltre a quella che aveva fatto tuo nonno, diciamo di vendicarsi, lei personalmente un'offerta anche di altro genere, ma lei rispose che il sangue di suo marito non si vendeva, non lo vendeva. Che tipo di offerta ricevette tua mamma? Perché queste, oltre ad essere la storia drammatica della tua famiglia, è anche un emblema anche del codice linguistico, diciamo comunicativo, che c'è in certi ambienti e in certi contesti di una Palermo di qualche anno fa. Mia madre, pur essendo giovanissima, pur essendo disperata, ripeto, perché si è trovata improvvisamente con un fardello che ero io, un bambino di 13 mesi da mantenere, rifiutò i soldi dell'assassino di mio padre, il quale gli aveva proposto, tra l'altro, che mi avrebbe mantenuto agli studi mandandomi in collegio e facendomi studiare. E mia madre gli rispose che lei il sangue di suo marito non l'avrebbe mai venduto e non lo ha fatto. E quindi ha continuato a sacrificarsi, a fare sempre la donna di servizio, la donna delle pulizie per tutta la vita. La tua storia da Vicolo Arena a essere uno degli inviati più importanti di Repubblica sulle vicende siciliane, ma non solo. La tua storia è anche la storia appunto di un lungo cammino fatto, ma anche la dimostrazione che non necessariamente il contesto determina, senza possibilità di cambiamento, il futuro e il destino di una persona. Per te è stata cruciale, diciamo, la scelta di tua madre. Guarda, se la devo dire tutta, sono stato molto fortunato, perché ti ripeto, anche se sono stato povero per tutta la vita, fino a un certo punto della mia vita, fino all'età di 20 anni, 18, 19 anni, mia madre ha sempre fatto quel lavoro lì. Io fino a 16 anni sono andato a scuola regolarmente, ho fatto le elementari, le medie, e poi mi sono iscritto all'istituto nautico, perché il mio sogno era quello di comandare le navi. Ma al terzo anno mia madre, poveretta, mi disse che non mi poteva più sostenere e che quindi avrei dovuto abbandonare gli studi e cercarmi un lavoro. E quella fu per me una delle più grosse mazzate della mia vita, perché ero arrabbiato col mondo e quindi mi sono messo a fare 3 miliardi di lavori, dal muratore, al marmista, al pediciaio, al commesso, al barista. E fu lì che, come dire, stavo per sbagliare. In che modo? Perché frequentando quegli ambienti e trovandomi in quella situazione di disperazione e di arrabbiatura soprattutto, tra l'altro dopo l'albergheria mi sono trasferito nella Piana dei Colli, che era la zona dei killer dei Corleonese, Animadonia, Riccobone, Mutoli, Micalizzi, Viga, Itroia e tanti altri, che erano, alcuni di questi erano compagni miei di scuola, sono stati e lo erano, e poi anche tra virgolette di giochi. E stiamo parlando in un momento particolare di Palermo, il momento del passaggio tra la prima e la seconda guerra di mafia, un momento in cui i morti ammazzati erano migliaia. E quindi un giorno mi proposero di fare una rapina e ero lì per lì per andarla a fare anch'io. Però, come dire, mi venne in mente la figura di mia madre e pensai, ho detto, ma se domani quando vado a fare questa rapina mi succede qualche cosa, se mi ammazzano o se mi arrestano, nel migliore dei casi, mia madre si suiciderebbe, perché l'unico scopo della sua vita ero io. Mia madre mi impedì, anche se lei non l'ha mai saputo, quello che stavo per fare, rinunciare alla rapina. Quindi la fortuna mi ha aiutato, perché il giorno della rapina, quel giorno, arrestarono tutti e finirono tutti in galera. Quanto spesso ti è capitato di incontrare, seguendo processi, inseguendo notizie, inchieste di vario genere, di incontrare facce e storie che venivano dal tuo passato? Mi è capitato moltissime volte, soprattutto nell'aula bunker di Palermo, quando si celebrò il primo maxi processo a Cosa Nostra. Lì dentro le gabbie, insieme a Luciano Ligio, Calò e tanti altri, c'erano i miei compagni di merende, chiamiamoli così. Ecco, perché tu hai citato i nomi che hai fatto prima, di quelli che passavano anche nei quartieri appunto dove tu vivevi in quel momento di Palermo, erano uomini e nomi vicini al Gotha di Cosa Nostra. Ero già diventato giornalista a quel punto, divento giornalista per caso a 25 anni, dopo che mi ero già sposato e avevo già 2 figli. Io ritornai a scuola, completai gli altri 2 anni che mi mancavano ed entrai come fattorino all'agenzia ANSA, perché mia madre faceva le pulizie all'agenzia ANSA e quindi avevano bisogno di un fattorino, quindi chiesero a mia madre se suo figlio, cioè io, voleva fare il fattorino all'agenzia ANSA, e naturalmente io accettai correndo. In quel momento facevo il commesso in un negozio di pezzetteria, vi potete immaginare quanto ero incazzato e arrabbiato, e quindi entrai all'ANSA come fattorino. E da lì, piano piano, frequentando quell'ambiente, ho conosciuto i più importanti giornalisti italiani, a Giampaolo Panza a scendere. E da lì piano piano poi diventai telescriventista e poi subito dopo mi assunsero come nell'84 come giornalista. E quindi durante il maxi processo io fui inviato dall'ANSA per seguire il maxi processo, il più grande processo alla mafia di Cosa Nostra, che era quello istruito da Falcone e Borsellino. E lì dentro quelle gabbie c'erano i miei, tra virgolette, ex amici, tra virgolette. E quindi li incontrai, li ho visti. Durante le pause del processo qualcuno l'ho avvicinato, gli ho detto, ciao, come stai? Per esempio uno era Totò Dalì, che poi è diventato capomandamento di San Lorenzo. Lui all'inizio non mi riconobbe, fece finta di non riconoscermi, poi quando mi presentai mi disse: ah, ma tu sei Viviano, quello che scrive sui giornali? E ho detto: sì, sono io. Parlare il loro stesso linguaggio, venire da quegli stessi quartieri, ti ha aiutato a capirlo, o in qualche modo è stato anche un po', come dire, più complicato, perché eri stato fino a un certo punto anche tu un figlio di quella stessa zona di Palermo? Era complicato, sì, però conoscevo, ti ripeto, la loro mentalità, la loro psicologia. Io credo che mi abbiano, tra virgolette, sempre rispettato, dice le virgolette, perché loro in carcere, soprattutto i detenuti, i giornali se li divorano, e li divorano dalla prima all'ultima pagina, anche per capire cosa succede fuori. E accettano che ci sia una persona che faceva parte, diciamo, di quel loro ambiente, che adesso scriva di loro e per certi versi non lo considerano ostile ancor di più degli altri? No, no, mi hanno considerato in qualche maniera ostile, però ti ripeto, c'è una sorta di codice, chiamiamolo, d'onore, di rispetto, nel senso che loro hanno, ritengo, considerato che io facevo il mio mestiere, punto e basta, perché loro rispettano e hanno rispettato poliziotti, carabinieri, magistrati che fanno il loro dovere, senza naturalmente esimersi dall'uccidere poi magistrati, investigatori o giornalisti che vanno troppo a fondo. Anch'io sono stato minacciato e ho rischiato di essere ammazzato. Cosa può succedere ad un giornalista cresciuto porta a porta con i mafiosi? Può capitare di trovare facce conosciute, nomi di gente con cui ha giocato a pallone o anche di cugini di primo grado tra le carte di un'inchiesta di cui deve scrivere. E allora tutto può diventare più faticoso e ancora più seri possono diventare le minacce. Decine i cronisti tuttora sotto tiro delle cosche, soprattutto in provincia, soprattutto quando ogni giorno incrociano la strada dei boss di cui poi parlano. E se loro di te conoscono indirizzo, familiari, amici, possono provare a ricattarti? A ciascuno il suo. Abiti sempre in vicolo Arena al 12? La mafia, quando vuole, sa spaventarti davvero e farti arrivare il messaggio che forse, con le tue chiacchiere sui giornali, la radio, le agenzie, stai andando un po' troppo oltre. La mafia, quando vuole, ti fa capire che sa tutto di te, conosce il tuo indirizzo, quello dei tuoi familiari, le tue abitudini. E questo per loro è ancora più facile e per il cronista ancora più brutto quando quella faccia la conoscono da sempre e sanno benissimo che forse solo per caso pure tu non sei uno di loro, un picciotto, un killer, un boss. Prima di un taccuino e della penna c'è stato un giorno in cui Francesco Viviano ha avuto tra le mani anche lui una pistola. Per questo, come avete sentito nella prima parte di A ciascuno il suo, ora si considera un killer mancato, titolo del suo libro di memorie, ora che è diventato un inviato di Repubblica e dice che solo per fortuna la sua vita ha preso una direzione diversa rispetto a quella degli altri abitanti dell'Albergheria, quartiere di Palermo, dove viveva fianco a fianco con i picciotti dei più importanti clan. La sua allora diventa la prova che esiste sempre, anche nelle realtà più contaminate, la possibilità di fare scelte differenti e di percorrere strade alternative. E per questo ho voluto raccontarvi stavolta la sua storia. Un collega che ho incontrato su molti servizi, vi racconto, dal naufragio di Lampedusa all'inchiesta MPS e che ho visto anche al Quirinale, quando entrambi venimmo premiati come cronista dell'anno. E lui, in quel momento, racconta oggi, pensò alla mamma, analfabeta, a cui poteva regalare la foto col Presidente della Repubblica. Quello è stato molto pesante, perché se un mafioso del calibro di Madonia, Giuseppe Madonia, che era appunto il braccio destro, il braccio armato di Totò Riina, ti dice appunto durante il processo Basile, il capitano dei carabinieri ucciso nell'82 dai corleonesi, e ti dice: ma sua madre ancora lì abita, lì mi venne la pelle d'oca e naturalmente ho avuto molta paura. Per carità, ho sempre camminato con i piedi di piombo, però la mia regola era quella di scrivere sempre la verità, perché io ho scritto non soltanto contro i mafiosi, ma ho scritto anche contro molti magistrati collusi, contro alcuni uomini dello Stato collusi, e quindi io credo che questo mi abbia sempre aiutato in qualche maniera ad essere stato rispettato, perché non attaccavo, cioè non scrivevo soltanto contro i mafiosi, ma scrivevo anche contro i magistrati che facevano parte pure della loro cordata, e quindi questo in qualche maniera mi ha salvato. L'altra regola che mi ha salvato è quello che se uno sa una cosa è meglio che non se la tiene nascosta, è meglio scriverla subito. Già è come se tu avessi, come dire, disinnescato una bomba, perché se loro sanno che tu sei, come dire, depositario di un segreto, di una storia o di una grande inchiesta che potrebbe provocare danni e non la scrivi, ti ammazzano prima che tu riesca a scriverla. O quantomeno tipo sei sotto il loro ricatto e in qualche modo questa diventa un'arma a loro favore sicuramente. Ecco Francesco, c'è stato qualcuno anche del tuo ex ambiente che ti ha anche aiutato? Cioè in qualche modo no. Che ha voluto aiutarti perché ha riconosciuto anche il cammino fatto da te? No, questo non è mai accaduto, perché loro in ogni caso non si mischiano mai con i giornalisti o con le forze dell'ordine per pilotare le loro cose, tranne che non siano loro amici o loro affiliati, che fanno parte del loro stesso giro, anche se rivestono un altro ruolo. Questo no. Ripeto, quello che mi ha aiutato è conoscere la loro testa, conoscere come mentalmente si comportano, e questo mi ha aiutato molto. Amici anche d'infanzia, ma poi ognuno resta nella sua strada. Sulla sua strada e la sua posizione. Tu parli spesso di un tuo amico, di una persona che era appunto vicina a te nella Palermo di Vicolo Arena, e che ti sei ritrovato più volte, che è ritornato nella cronaca più volte anche dopo la cattura di Provenzano, ossia Totò Davi. Totò Davi l'ho conosciuto appunto, andavamo a ballare assieme, a quei tempi eravamo giovanottini, non avevamo ragazze, per cui avevamo affittato insieme a lui e insieme ad altri ragazzi del nostro giro una casetta in via Patti, che era nel quartiere di San Lorenzo, un quartiere molto ad alta densità mafiosa, e quindi avevamo costituito una sorta di club per andare a ballare. Quindi questo signore poi fu arrestato insieme ad altri due miei, tra virgolette, amici, Michele e Totino Michalizzi, perché avevano ammazzato un agente di polizia durante un tentativo di estorsione a un imprenditore palermitano, e quindi furono condannati all'ergastolo appena da 25-35 anni. Quindi durante il maxi processo alcuni di loro li incontrai proprio nel lavoro a Bunker. Poi dopo anni, per esempio Totò Davi mi scrisse una lettera dal carcere dicendomi che mi voleva incontrare perché voleva parlarmi. Io feci una regolare richiesta al Ministero di Grazia e Giustizia, chiesi se era possibile incontrarlo e lo andai a trovare in carcere. Lui aveva già scontato almeno 22 anni di galera. Mi disse che voleva parlare con me perché si era accorto che avevo scritto un sacco di storie, un sacco di tante cose, riassumendo anche casi vecchi, tipo il caso di Mauro De Mauro, il giornalista ammazzato dalla mafia, certo, Comparso di Lupara Bianca e mai trovato. E quindi mi disse: scrivi tante cose, come dire, scottanti, perché non ti occupi anche del mio caso? Ho detto: ma io il tuo caso lo conosco bene, conosco la tua storia, tu sei in galera perché sei stato condannato a pena definitiva, di cosa vuoi parlare? Se tu mi dimostri, gli ho detto, che quel giorno, in quell'ora, in quel momento, non hai ammazzato quella gente, se mi dai una prova io lo scrivo come lo scriverei per chiunque altro. E quindi non finì così. Palermo è sempre una città che è stata sempre perennemente in trincea sotto tanti punti di vista, quindi poi uno, prese dalle storie quotidiane, non ci riflette. Ma poi, ripensandoci, a un certo punto, anche nel rimettere insieme, no, le storie che adesso compongono questa parte della tua vita in questo libro, ripensare che poi quelle persone lì, no, te le ritrovi anche tra gli ordini di cattura dopo l'arresto di Provenzano, oppure avere tra le mani, perché per il lavoro che fai, l'ordinanza di custodia cautelare, e trovarti davanti un nome di persona che non è soltanto un nome di un criminale, ma è anche una persona che hai conosciuto direttamente, diciamo, col tempo non fa, che effetto ti fa? Sono riuscito a venirne a capo, perché ripeto, io ho fatto il giornalista, poi non facevo, certo, il rapinatore, il killer, quindi facevo il mio lavoro e credo di averlo sempre fatto con onestà, per cui non avevo nessun problema, nessun timore a scrivere di loro. Ma un dispiacere invece? Un dispiacere naturalmente l'ho avuto, ed è stato quando hanno arrestato un mio cugino di primo grado, figli di fratelli. Questo mio cugino fu arrestato una volta per rapina, un'altra volta per spaccio di stupefacenti e l'ultima volta alcuni anni fa perché era diventato un uomo d'onore ed è stato già condannato in primo grado a 10 anni, adesso si aspetta il processo d'appello. E ne hai scritto tu direttamente? la verità. E lui era, come dire, nato come me in questo quartiere, all'albergheria. Quindi mi sono dovuto trovare a scrivere di mio cugino, che tra l'altro ho battezzato io quando è nato. E l'ho ritrovato nelle cronache e mi sono dovuto occupare lui scrivendone, anche quando è stato arrestato per l'associazione mafiosa. E questo mi è dispiaciuto molto, naturalmente, perché, ti ripeto, è un parente. Però poi ognuno... aveva la sua quello parte. Che avrei potuto diventare io, la stessa cosa, perché lui è rimasto in quel quartiere, ha cominciato a frequentare, come dire, gente non molto ben educata, e si è trovato in quel giro e piano piano ha fatto carriera all'interno di quel giro. Tornando però indietro alla prima parte, diciamo, della tua vita, cos'è che ti ha davvero poi impedito, ti ha distolto dal vendicare tu la morte di tuo padre? Guarda, quando io ho deciso di vendicarmi, ero in quel momento particolare della mia vita che ti ho detto, quando ho dovuto abbandonare gli studi, quindi in quel momento mi venne una rabbia enorme. Ho avuto lì per lì il momento, ho detto, ma ora vado ad ammazzare l'uomo che ha ammazzato mio padre. Ho tentato di farlo, però per fortuna all'ultimo momento, quando già avevo il grilletto puntato sulla testa di questo signore, che aveva in braccio un bambino, mi sono fermato, ho detto, ma che cavolo sto facendo? Sto facendo diventare un orfano questo bambino che pure lui porta in braccio, e magari questa storia chissà quando finirà, e poi magari questo bambino fra 20 anni si chiederà come e perché suo padre è stato ammazzato, e magari avrà voglia di vendetta. Ma non è stata la paura a fermarmi, è stato proprio questo concetto, e soprattutto la figura di mia madre. Si è sacrificata tutta la vita per mantenere questo figlio, per farlo crescere in maniera pulita. Se avete storie o storiacce o anche solo disservizi di vario genere da segnalarci, scrivetemi pure una mail o mi trovate sulla pagina Facebook di Storiacce, ricordate Storiacce, o sul blog Storiacce. Su Twitter invece all'account Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!